Giovedì 16 febbraio 2017, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Allora, l'appuntamento è con Visionare, il cinema su queste frequenze tutti i giovedì intorno alle 14 fino alle 15 e poi cominciamo sempre prima, subito dopo il giornale radio. Ci ascoltate su queste frequenze, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Oh, non era un collegamento in programma per oggi, però mi è arrivata comunicazione. Stiamo parlando dello spazio comune Cinema Aquila, perché ci sono delle novità. Pronto, ci sei? Pronto, pronto, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di averci accolto fuori programma, proprio per questo, per non rubare tempo, diciamo, alla scaletta di Visionari e lasciare tutti voi ascoltatori lo spazio di godervi nell'etere un po' di buone visioni. Volevamo semplicemente fare un intervento per invitare a continuare a vivere quello spazio, lo spazio di Via L'Aquila, del nuovo Cinema Aquila. Diciamo, sono uno dei delle persone che anima SCA, che sta animando questa fase particolare di passaggio, di cui chi ha avuto modo di ascoltare già notizie o di venire ha potuto toccare con mano. Una fase abbastanza sperimentale di passaggio, di cogestione, di gestione, di autogestione insieme al municipio Quinto, e in SCA ci sono tante associazioni, cittadini, residenti che sono qui e che in qualche maniera hanno trovato questa chiave per riaprire un cinema che altrimenti sarebbe dovuto rimanere chiuso. Ci tenevamo a fare questa comunicazione perché da ieri c'è stata, diciamo, una sorta di c'è una novità che non ci ha visti coinvolti nella decisione che ha portato a questa novità. L'autogestione continuerà con in altri modi, in altre pratiche, perché non siamo più noi insieme al municipio ad aprire lo spazio. È un dettaglio che può sembrare tecnico, però insomma ci tenevamo a dire che alcune cose possono mutare ed è un qualcosa che non abbiamo deciso. Ci teniamo a specificarlo perché comunque è stato fatto un bando di gara, è entrata una ditta che ha vinto il bando di gara comunale e sono stati spesi dei soldi pubblici, che non è quello che SCA aveva intenzione di fare in questa fase o stava mettendo in pratica in questa fase. Cioè, per noi era un esperimento totalmente nuovo di gestione, di cogestione anzi, e quindi ci tenevamo semplicemente a fare questa puntualizzazione, diciamo, non in questo momento di trasformazione siamo ancora presenti perché vogliamo garantire che questo processo continui nello stesso modo, non si interrompa. C'è un rischio di chiusura di nuovo alla fine di marzo perché si prospettano dei lavori di ristrutturazione per rendere agibili anche gli altri due piani, e ci sembrerebbe logico rimandarli all'estate questi lavori, quando i cinema, insomma, sono meno frequentati e chiudono. È una situazione che invitiamo comunque a visitare. Ho dato pochi elementi, mi rendo conto, ci sono dei riferimenti che sono riapriamoilcinemaaquila.wordpress.org, non ricordo esattamente, comunque si trova facilmente, sì, su Facebook, sì. SCCA, tra l'altro, con una, Comune Cinema Aquila. Tra l'altro con una programmazione in continuo divenire, ci sono... In continuo divenire, abbiamo marzo programmato, stiamo arrivando su aprile, a cavallo tra marzo e aprile, proprio quando dovrebbe arrivare la chiusura per questi lavori. In realtà stiamo programmando una decina di film che sono attualmente in programmazione in tutto il mondo, diciamo, cioè, ci sarà un ciclo di cinema internazionale assolutamente di livello, sono tutti film, non vi posso fare i nomi perché non li so a memoria, diciamo, in qualche maniera non ce li ho fissati, però è un cinema di altissimo livello che proveremo a concentrare nell'arco di 4-5 giorni al massimo, queste 10 visioni circa, che sono rese possibili grazie all'aiuto di distributori indipendenti, sì, di produttori indipendenti, che stanno in qualche maniera accompagnandoci, noi non potendo comprare i film, i diritti, non pagare quello che potrebbe essere pagato per la visione, ci stiamo affidando a una rete di produttori, operatori che sono vicini a questa esperienza e che stanno portando comunque un altissimo livello da un punto di vista della qualità. Scusa, non ti ho... No, stavo aggiungendo che per i titoli italiani spesso c'è anche la presenza degli autori. Sì, ieri c'era Rosso Fiorentino, è stata una prima, c'era anche Della Stampa, ha funzionato proprio da sala di anteprima, non c'era solo Stampa, era aperta a tutti, era un racconto, una serata firmata da ACAD, molto emozionante tra l'altro, insomma sono storie che anche gli ascoltatori di Radio Onda Rossa conoscono, un po' di meno anche gli abitanti del quartiere, quindi continua a rimanere uno spazio anche critico. E la cosa importante, non ci stanchiamo mai di ripeterla, che ogni giovedì, tutti i giovedì alle ore 20, dalle 20 alle 21, c'è l'assemblea di programmazione, che è un'assemblea assolutamente aperta e di volta in volta, di settimana in settimana, cambia la composizione, cambiano i numeri. Abbiamo insomma avuto nel scorso giovedì più di 15 nuove proposte di persone che sono arrivate, si sta anche lavorando per aprire alla comunità di immigrati di altre nazionalità che frequentano poi in particolare e vivono in questa zona del Pigneto. Allora facciamo una che... cosa bella, sì. Mi va di chiudere con una cosa, perché diciamo le scalette del cinema Aquila Chiuso sono stati per anni luogo di incontro e di spaccio, luogo di incontro dello spaccio. Beh, questa cosa al momento non c'è più, diciamo è una cosa che si può toccare con mano passando lì davanti al cinema L'Aquila. Chi lo conosce, anzi al cinema L'Aquila, può notare da subito una grande differenza, cioè aprire con la cultura, aprire quelle serrande chiuse, quelle porte chiuse, ci dà se non altro questo, chiamiamolo piccolo, segno concreto, tangibile. Io t'abbraccio, chiaramente siamo attenti a quello che succede, quindi per ogni eventualità visionaria aperta alla presenza chiaramente dello spazio. E magari ci organizziamo per prossima settimana per raccontarci meglio. Grazie mille. Un abbraccio, a presto. Buon proseguimento di giornata. Ciao, grazie. Ciao. Eccoci con Paola Columba, regista del documentario Femminismo, che sarà in programmazione alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma sabato 18 febbraio, documentario al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto storica. Allora Paola, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, un sacco di interlocutrici nel tuo lavoro, racconta un po' di cosa si tratta. Si tratta di capire che cosa sanno le giovani donne, giovani, giovanissime donne di oggi, di quello che hanno fatto le loro mamme, le loro nonne in passato, delle conquiste importanti per noi donne, legge sul divorzio, sull'aborto, il diritto di famiglia, cose che hanno cambiato la nostra società e il nostro modo di considerarci, di considerare le donne, cose, diritti che io, diciamo, della mia generazione, sono una generazione di mezzo, ho considerato come acquisiti, no? Come già conquistati, e mi sono resa conto che invece le ragazze molto più giovani di me, parlo delle adolescenti, anche delle ventenni, via via, non voglio generalizzare, ma non si stanno rendendo conto che poi questi diritti non sono per sempre, si stanno perdendo, e questa è una cosa molto preoccupante. E ho voluto fare questo documentario per fare un po' il punto, per capire io prima di tutto che cosa stava succedendo e che problemi ci sono stati evidentemente nella trasmissione e che cosa si può fare. Sì, giustamente parlavi in effetti di un difetto di trasmissione, perché ma non solo, insomma sono tanti i fattori. Due degli elementi che più mi hanno colpito nelle interviste alle più giovani è l'equiparazione per esempio tra maschilismo e femminismo, oppure il corpo come oggetto rivendicato in qualche modo come strumento per raggiungere qualcosa, il che comunque rientra, anche se un uso consapevole, però comunque rientra in un'ottica che ci portiamo dietro da secoli per quanto riguarda la nostra società. Sì, sono due cose infatti importanti che tu hai notato, sono il fulcro un po' del documentario, no? Com'è possibile che si consideri che il femminismo è la supremazia della donna sull'uomo? Non siamo a questo punto, non è questo, sono state battaglie che sono state di rivendicazione, se vuoi anche comunque sempre pacifiche, quindi non violente, ma queste nostre battaglie storiche per arrivare, diciamo, almeno non siamo ancora arrivati alla parità, ma almeno per conquistare alcune cose di base, come per esempio se pensi che fino al 1963 le donne non potevano entrare in magistratura, no? E questa, diciamo, è una cosa, ed evidentemente se una ragazza giovane pensa che sia la supremazia della donna sull'uomo è perché magari delle forme come il separatismo, no? Come che sono stati degli elementi importanti negli anni del femminismo storico degli anni 70, forse sono stati, diciamo, mal interpretati, ecco. E d'altra parte, che cosa è successo poi? Un'altra conquista molto grossa è stata quella della libertà sessuale, no? Cioè noi donne siamo diventate, insomma, padrone. Lo slogan "io sono mia" significava qualcosa, non era un corpo che apparteneva al marito, che apparteneva al maschio, no? Ecco, adesso che cosa è successo? Che qui dico forse c'è un problema, no, di trasmissione. La libertà sessuale come mercificazione del proprio corpo, come esibizione, come inseguimento di un modello, che poi, ecco, questo è un fenomeno legato molto, come tu ben sai, al web, legato molto a questi social network, no? A una nuova comunicazione che non è più, diciamo, nella sostanza delle cose, no? Ma è nell'esteriorità, sì, nella forma. Senti, un'altra cosa è il riferimento ai momenti di più ampia visibilità e di dibattito, come per esempio è stato "Se non ora quando", io aggiungerei anche "Non una di meno", due momenti importanti che stanno portando a qualche cosa secondo te? Guarda, sono stati fondamentali perché innanzitutto hanno riportato l'attenzione sulla questione del mondo femminile, che non se ne parla mai abbastanza. E sono manifestazioni che sono, diciamo, sono movimenti, occasioni, momenti importanti di ricongiungimento, perché i femminismi sono tanti, sono diversi, sono nuovi e con nuove sfide che sono quelle che ci arrivano dalla migrazione e quindi da realtà femminili, culturali, religiose molto diverse dalle nostre, no? E quindi sì, hanno portato diciamo un nuovo modello di aggregazione, nuovo e diverso rispetto a quelli degli anni 70, e hanno anche però, diciamo, evidenziato quali sono le differenze in senso negativo, cioè questo individualismo un individualismo sfrenato per certi aspetti, no? Il fatto di non considerare più le battaglie come una cosa comune, ma di mettere davanti un po' la soggettività, un po' l'individualismo, ecco, sì, questo sì. Sì. Senti, sabato c'è questo appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne, e poi quale sarà il futuro di questo documentario tra festival e magari una programmazione, proiezioni pubbliche o distribuzione in sala? Sì, guarda, noi per fortuna siamo adesso subissate da un sacco di richieste, quindi faremo una piccola distribuzione nelle sale cinematografiche in giro per l'Italia e anche nelle scuole e anche nelle università, quindi ha una vita adesso molto lunga il documentario. Comincia da questa proiezione pubblica alla Casa Internazionale delle Donne, poi ce ne sarà una il 2 marzo all'AMOD, che ha contribuito alla realizzazione e alla produzione del film documentario, e poi andremo a Milano, andremo a Monza, andremo a Bologna alla Cineteca, andremo al Festival Film Festival Sguardi Altrove a Milano, insomma c'è una bella distribuzione. Allora, ricordiamo l'orario di sabato e poi ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più. Senz'altro, l'orario di sabato è alle 18 alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara, luogo storico. Sì. E poi sì, vi darò tutte le informazioni, certo, per gli altri appuntamenti. Senti, c'è una pagina Facebook, un sito internet? Dunque, c'è una pagina Facebook, sì, dell'evento della Casa Internazionale delle Donne. Okay. E quindi lì ci sono tutti i riferimenti, e poi ne faremo adesso un'altra, diciamo, che darà tutti gli appuntamenti per i prossimi 2 mesi, febbraio e marzo, della distribuzione del documentario. Paola, io ti abbraccio, a risentirci presto. Ti ringrazio molto, Federico, grazie. Ciao. Ciao, alla prossima. A presto. Ciao. Ciao. Paola Columba, regista del documentario Femminismo alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, sabato 18 febbraio. Simone Aleandri, regista del documentario Sono Cosa Nostra. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Simone. Grazie, buongiorno, ciao a tutti. Ha avuto modo di vedere questo documentario alla scorsa edizione del Clorofilla Film Festival. Di cosa si parla, Simone? Allora, il documentario è un lavoro fortemente voluto da Rai Cinema in occasione del ventennale sulla legge 109 del 96, che prevede il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. E è stato presentato in anteprima a New York proprio per riflettere all'estero su un fenomeno, quello delle mafie, che trova le radici nel nostro paese, ma nel contempo trova anche gli anticorpi e gli strumenti all'avanguardia a livello legislativo per combatterli. E quindi abbiamo cercato di ripercorrere questi 20 anni dall'attivazione della legge, e facendo un lungo viaggio da nord a sud Italia, incontrando gli strumenti di questo cambiamento. Senti, quante sono state le tappe per chi ci ascolta? Abbiamo incontrato circa 10 realtà, 10 associazioni, ma sono molto di più. Oggi la rete di Libera comprende circa 500 associazioni. Abbiamo cercato di assortire nel modo più variegato possibile quelli che poi sono i riutilizzi dei beni, cercando appunto di mettere in luce queste attività che vengono gestite in spazi dove prima c'erano dei bar, delle semplici tabaccherie o dei terreni agricoli piuttosto che delle aziende. Il fatto che si colpiscano i beni è un vulnus particolarmente importante per la criminalità organizzata, che infatti reagisce in diversi modi. Allora, le aziende sono quasi tutte giovani e vanno incontro a due problemi sostanzialmente, perché poi ne abbiamo parlato anche in altre occasioni per altri documentari che di questo si sono occupati. Uno è ad esempio le intimidazioni e i danneggiamenti veri e propri, e l'altro le burocrazie che mettono tanti paletti e ci sono tante difficoltà. Molti beni restano abbandonati, non vengono riutilizzati. Sì. Guarda, c'è un caso specifico proprio che raccontiamo nel documentario e che è esemplificativo di quanto stai dicendo. Si tratta del maglificio 115 Passi nel comune di Quindici, in provincia di Avellino, che è stato poi il primo paese a essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose, in cui la villa bunker appartenuta al clan Graziano è stata riconvertita in un maglificio. E noi abbiamo incontrato i ragazzi e poi io ho proseguito il viaggio per l'Italia per portare a termine il documentario, quando mi ha raggiunto la notizia che era stato commesso un attentato al maglificio ed erano stati sparati a scopo intimidatorio dei colpi di fucile sul cancello. I ragazzi non si sono spaventati e sono riusciti comunque ad inaugurare il maglificio che oggi produce, e quindi i problemi ovviamente sono tanti per questi giovani che lottano sul territorio. Senti, Simone, per la visibilità di questo tuo lavoro ci sono... Intanto, se c'è un riferimento web con una pagina Facebook, un sito internet, e poi si è prevista un'uscita in sala, insomma, o dei passaggi televisivi o altro? Allora, il documentario è stato trasmesso in occasione proprio del ventennale della legge da Speciale TG1 ed è ancora visibile su internet nel sito del TG1. Okay. E uscite cinematografiche non sono previste, però il documentario è nella piena disponibilità dell'associazione Libera, che quindi organizza delle proiezioni sia in Italia e sia all'estero. E questa cosa dell'estero è particolarmente importante perché L'Italia è l'unico paese che prevede riutilizzo sociale dei beni confiscati, nella gran parte degli altri paesi è prevista la vendita immediata dei beni e quindi all'estero c'è particolarmente attenzione sulla legislazione italiana e Libera quindi organizza delle proiezioni proprio per riflettere su questo argomento. Bene, allora Simone, tutti i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si sente per le prossime novità. Va bene, grazie. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao. Simone Aleandri, regista del documentario Sono Cosa Nostra. In collegamento con Paolo Civati, regista del documentario Castro. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Paolo. Ciao a tutti, ciao. Allora, si parla di diritto all'abitare, dell'ampio movimento per questo diritto a Roma. Raccontaci un po' di questa avventura. Direi che Roma è uno spunto, non è poi in realtà il tema, né la città né l'abitare a Roma, bensì il concetto di casa come luogo necessario all'uomo per poter evolvere in tutti i sensi, sia per la sicurezza personale sia per evolvere nei rapporti sociali. Qui si parla di un luogo che non esiste più perché era un'occupazione che durava da 12 anni. Io ho intercettato queste persone molto da vicino perché avevo uno spazio teatrale all'interno di questa occupazione. Quando abbiamo saputo che stavano per mandare via le persone, abbiamo pensato di parlare non tanto da un punto di vista strettamente politico, nel senso di movimenti per la casa, piuttosto che non diritto alla casa, il comune o cose di questo genere, ma attraverso le persone, cioè un occhio interno a chi effettivamente vive queste situazioni per rompere quel pack emotivo, questo è il tentativo del film, che separa quelli che vanno a occupare, che sono dei mostri che occupano le nostre case eccetera eccetera, e invece mostrare che si tratta di esseri umani che magari hanno la colpa di avere una pensione bassa piuttosto che non semplicemente fatto degli errori che potrebbero capitare a tutti, però vengono immediatamente chiusi fuori da questa società. Ecco, noi mettiamo davanti agli occhi del pubblico le vite, semplicemente, e questo per me e per tutti noi era fare politica. Questa è. Senti, che esperienza è stata, come è stato anche questo chiamiamolo tra virgolette pedinamento nelle vite delle persone coinvolte? Siamo partiti molto osservandoli, cioè siamo stati molto con queste persone per cercare di creare poi gli inneschi drammatici per riuscire a costruire delle scene. Chiaramente il tentativo massimo per il documentario è quello di diventare invisibili, di non far poi in uno stabile, è un palazzo, c'erano 40 famiglie, quindi tantissime persone. Passare con una telecamera e non essere visti è un obiettivo molto ambizioso. Ci è voluto un anno e mezzo, per cui a un certo punto siamo scomparsi. È chiaro che qualcuno stai sulle palle perché stai sempre a frugare nella sua vita. Però questo ha creato sia la selezione interna delle persone che poi abbiamo portato avanti, sia una bellissima sensazione di empatia, perché il rischio sempre è quello di avere un po' l'occhio di quello che vuole salvare, no? Delle persone da una condizione. Invece dopo un po' è diventato ok, siamo insieme in questa condizione, cerchiamo di condividerla, e quindi sei più in ascolto che se non pensi di salvare la vita degli altri. Una cosa bella. C'è stato un passaggio, poi per chi potrà vedere il film si accorgerà che c'è molta c'è stato dato molto, ecco, non si passa dalle interviste, sono fondamentalmente tante scene in cui tu ti accorgi che si sono esposte queste persone, certo, hanno fatto vedere, certo, mostrato il fianco. Certo. Senti Paolo, e invece l'esperienza teatrale all'interno di questa occupazione come è stata? Io vivo a Roma, ma sono di Como. A Roma avevo bisogno di uno spazio per lavorare, non avevo i soldi per potermi, ma chi ce li ha, prendere uno spazio per poter costruire le proprie. Queste sono state le uniche persone che senza grossi scambi mi hanno, soprattutto non economici, mi hanno detto va bene, noi abbiamo questa stanzaccia a scena, però se la vuoi è tu, per cui ho potuto creare un più piccolo mondo e condividerlo in parte con loro, perché i primi anni che stavo lì facevamo dei, chiamavamo festival apposta con questo nome altisonante, dei festival che si chiamavano Incastro come luogo. In questi festival facciamo venire da fuori tantissima gente per, un po' per far vivere le stanze di questo posto, nel primo caso anche addirittura portandoli nelle case delle persone, facendo azioni teatrali. Poi, quando si è chiuso quel posto lì di cui io parlo, in realtà si è chiuso anche il mio spazio, quindi è stato emotivamente abbastanza così. Bel colpone. Senti Paolo, invece i rapporti con il quartiere, con la zona circostante? Allora, da una parte ti racconto una cosa. Io avevo bisogno di fare delle riprese dello stabile da lontano, fondamentalmente con punti di vista differenti che non fossero quelli della tangenziale, perché era orrendo, sembrava una cosa da televisione, e solo l'inquadratura non ci piaceva. Allora abbiamo chiesto ai palazzi circostanti: possiamo venire a casa vostra piuttosto che non un ufficio, l'ufficio del messaggero, possiamo venire, salire, fare una ripresa, eccetera. Non è accaduto, ecco, questo è il rapporto con gli immediati vicini di casa. E quello dell'occupazione rispetto a alla zona, come erano visti gli occupanti della casa? Rispetto alla zona, comunque una delle famiglie, per esempio, che aveva i bambini, era finita in questa condizione negli ultimi 3 anni, aveva dei bambini che andavano in una scuola elementare vicino, non avevano raccontato alla scuola che questo era successo per paura che venissero discriminati. Di fatto, questo nel film poi non l'abbiamo montato, di fatto quando è venuto fuori che dopo un paio d'anni che questi bambini erano di quel posto lì, poi è arrivata una lettera da parte della scuola dicendo che i genitori non erano poi così tanto contenti che questi bambini fossero in classe loro. Questo è un po' quello che succede, è successo a delle persone. Poi altre persone invece, sai, è molto personale, se te ne sbatti te ne sbatti, puoi andare in giro coi capelli color non so che e ridere, oppure essere, no, star male con te stesso. È chiaro che comunque era un posto considerato pericoloso, ma non pericoloso chissà, però comunque se entravi in quel cancello eri un altro, non eri uno di noi, non si sa a quale noi si riferisse questo sguardo, ma non eri più uno di noi, insomma. Come mai entri lì? Alle volte ho visto degli sguardi anche su di me che magari arrivavo come non si aspettano che entri in un posto così. Mentre invece, per esempio, uno degli occupanti nel documentario ha un bel rapporto con una donna che lavora in una pizzeria lì di zona. Certo, era una cosa bellissima perché lui, Robertino, aveva vissuto nel quartiere dove andava a mangiare la pizza e malinconicamente continuava a tornare lì a mangiare tutti i giorni. Lì c'era questa ragazza, Antonietta, che in maniera divertente, in effetti, se ci si pensa, faceva l'agente immobiliare, e si incontravano tutti i giorni a pranzo, e c'era un'empatia, L'altra sera abbiamo fatto il film, abbiamo proiettato il film alla Casa del Cinema di nuovo e sono venuti tutti e due insieme. C'è una sorta di fidanzamento platonico e universale che era veramente tenero come discorso. Senti, di Castro è prevista uscita in sala, passaggi televisivi, festival, c'è qualche luogo virtuale per saperne di più, pagine Facebook, siti internet? C'è tutto quello che hai detto. In questo momento io sono a Torino perché stasera lo proiettiamo al Cinema Fratelli Marx, e contemporaneamente è a Firenze al Cinema La Compagnia a 4 proiezioni fino a domenica, poi da qui andiamo a Milano e continuerà, ieri è stata a Senigallia, continuerà poi a muoversi, va a Modena, Genova e tra aprile e marzo, non abbiamo ancora le date precise, siamo all'interno del Festival Millennium in Belgio, è un bellissimo festival di documentari, siamo molto contenti di esserci, insomma, per un documentario che normalmente è una vita minuscola. Sì, ma intorno al quale si sta creando un certo interesse, tra l'altro ha anche ottenuto un importante riconoscimento al Festival dei Popoli, l'ultimo Festival dei Popoli di quest'inverno. Sì, abbiamo vinto tutti e tre i premi del Festival del Popolo, quindi è così, però uno, capito, lavora e poi scopre che il proprio lavoro viene capito, no? Sì, che, sì, sì. C'era sempre, c'era il rischio minuscolo però di pensare, ma questa storia è una storia passando solo per le persone, non è un'inchiesta, non è una denuncia, in realtà lo è, però magari non interessa nessuno di queste persone, invece invece invece sì, tra l'altro sì. L'altro giorno che c'era, l'altra sera che c'era Robertino, mi ha detto una cosa di al contrario che mi ha fatto molto effetto, perché ha detto, vedi, adesso tutta questa gente era piena di gente, per questi 82 minuti era veramente contenta e interessante della nostra vita, ma da domani si volta la faccia. Per cui dall'altra parte pum, mi è arrivata sta roba. Allora Paolo, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Paolo Civati, regista del documentario Castro. Eccoci con Mirko Melchiorre, regista del documentario Pigs. Mirko, benvenuto. Buongiorno. A Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno. Allora, complimenti, ho visto il tuo lavoro l'altra sera e ne ho voluto subito prendere contatto con te. Raccontiamolo a chi ci ascolta, di cosa si parla. Vabbè, innanzitutto grazie per i complimenti. Allora, Pigs è un documentario che è frutto di 3-4 anni di studio, di ricerca, che analizza e fa un'indagine su quella che è l'attuale stato delle economie dell'Unione Europea. E è un'indagine su quelle che sono state le politiche di austerity, politiche attuate dal 2008, dall'avvento della crisi ad oggi, e di come queste politiche austerity stanno impoverendo su larga scala i paesi dell'Unione Europea e stanno influenzando direttamente le economie dei singoli cittadini, quindi le economie di noi, di noi diretti interessati che viviamo la vita quotidiana. E per fare questo abbiamo diviso il racconto, diciamo, su due livelli. Abbiamo fatto un'analisi macroeconomica, appunto, chiedendo opinioni a economisti e filosofi, tra cui Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, che appunto hanno fatto un'analisi su quelle che sono state queste politiche di austerity, e abbiamo contrapposto a questa e abbiamo raccontato parallelamente la storia di una cooperativa sociale di Monterotondo, cooperativa sociale che appunto sta pagando gli effetti di queste politiche di austerity, che purtroppo è costretta sta rischiando diciamo di fallire, di chiudere, e quindi di lasciare a casa a più di 100 ragazzi disabili e altri centinaia di ragazzi svantaggiati che assiste. Questo perché? Perché per il famoso patto di stabilità sono stati fatti dei tagli eccessivi alle politiche sociali. Oh Mirko, un paio di elementi sono fondamentali e anche illuminanti del tuo lavoro. Il primo è che attraverso le parole... Sottolineo il fatto che è un lavoro fatto, diciamo, a sei mani, siamo tre registi. Siamo io, Adriano Cudraro e Federico Greco. Uno è il fatto che attraverso le parole di questi esperti, anche super partes per certi versi, vengono messi in discussione i tre dogmi dell'attuale fondamento dell'economia mondiale, ossia il debito, il deficit e l'inflazione. Certo, sì, sì. Infatti tutto il documentario gioca appunto su questo, a andare a smentire questi tre dogmi su cui si sono basate le politiche appunto dell'austerity come il 3%. La faccenda del 3% è strabiliante, insomma, raccontalo brevemente a chi ci ascolta perché fa ridere. Ma sì, appunto, dimostra di quanto sia poco scientifico, di quanto questi studi poco scientifici vengano presi a modello per appunto attuare queste politiche che non sono né in cielo né in terra, ed è il paradosso appunto di tutta la struttura architettonica su cui è stata costruita l'Unione Europea, come anche appunto il debito pubblico, come anche l'inflazione. Sono dei dogmi che ci hanno raccontato e che sono veramente frutto di teorie inventate appunto dal giorno alla notte. In un'ora la questione del debito al 3% risolta in un'ora. Deficit. In un'ora, infatti, è una cosa che ha veramente allucinante. Ma anche come il debito pubblico, di quanto il debito pubblico possa andare ad impedire una crescita del PIL, anche quello lo studio di Reinhard Rogoff è veramente qualcosa di impressionante. Un'altra questione fondamentale è quella che riguarda la moneta, quando non si ha più il controllo, non si stampa moneta, e legato strettamente al concetto di sovranità nazionale. Sì, abbiamo ceduto tutte queste sovranità appunto a Bruxelles e non abbiamo più la possibilità di gestire la nostra moneta e quindi di gestire le scelte di politica economica interne. Finché non capiamo questo, purtroppo non riusciremo mai a uscire da questa crisi. Saremo sempre appunto attaccati a sperare di crescere dello 0,1, 0,2 e non ne avremo mai fuori. Anche perché si va all'opposto, nel senso dovrebbe essere aumentata la spesa pubblica per aumentare occupazione, eccetera, eccetera. Certo, per creare occupazione, per creare, certo, indotto, per tutelare tutti i diritti, certo, il diritto alla sanità, all'istruzione, al lavoro. E invece si va in direzione opposta. Si va in direzione opposta, si fanno questi tagli che vanno a colpire appunto le persone con più difficoltà, si va a colpire il welfare state, e appunto per quello non abbiamo voluto raccontare questa cooperativa, perché ha a che fare appunto con delle persone che sono in estrema difficoltà. Senti Mirko, c'è una pagina Facebook, un sito internet per PIGS? Sì, allora, innanzitutto PIGS è un documentario totalmente indipendente che per veramente dei miracoli che abbiamo fatto io, Federico e Adriano, siamo riusciti ad avere una distribuzione e il 30 marzo uscirà nei cinema con Finrush Media. Questa è la notizia principale al momento. Al momento, e quindi avremo modo anche di riparlarne. Avremo di vederlo al cinema, sì, e di riparlarne ancora più avanti. Sì, sì. Poi c'è anche la pagina Facebook che è PIGS The Movie. Chiaramente con le due I che stanno a rappresentare la sigla dei paesi meno virtuosi dell'Europa. La cosa principale, sì, PIGS è l'acronimo con cui siamo stati definiti nel 2009 da un giornalista dell'Economist, che sta appunto per le iniziali di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, con l'acronimo con cui vengono definiti appunto i paesi in difficoltà economica, con dei debiti pubblici molto elevati. Con molto razzismo anche. Acronimo, sì, dispregiativo, come ci dice anche Chomsky, che è uno dei nostri intervistati. Abbiamo avuto l'onore di intervistare Noam Chomsky, che appunto sottolinea quanto questo acronimo fosse potuto essere un fatto in maniera diversa, avrebbe potuto essere SPIG o altri termini, ma non sarebbe stato così dispregiativo come PIGS, che vuol dire maiali, ovviamente. Mirko, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio, a questo punto ci diamo appuntamento per l'uscita in sala per riparlarne. Ok, grazie a voi, grazie. A presto, ciao Mirko. A presto. Mirko Melchiorre, regista del documentario PIGS. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info sull'home page ascolta la diretta. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Mary Mirka Milo, regista del documentario Inferno, Mittelbau Dora. Mary, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Mi incuriosiva molto questo tuo lavoro, parlacene un po', Mary. Allora, il documentario racconta una storia che è poco conosciuta, quella del campo di concentramento di Mittelbau Dora, che è stato costruito dai nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che è un campo unico nel suo genere, nel senso che si sviluppa quasi interamente sottoterra. Quindi con le riprese che abbiamo fatto sul posto abbiamo proprio tentato di raccontare la vita degli internati, nel senso sono persone che hanno vissuto per 20 mesi sottoterra in un intreccio di gallerie sotterranee che sono enormi e senza un impianto di areazione o di riscaldamento, non c'era un bagno in cui lavarsi. Quindi immaginiamo vivere senza mai vedere la luce del sole. Internati lavorano nel campo alla produzione dei missili V2, mangiano e dormono nelle gallerie sotterranee e purtroppo molti di loro muoiono proprio all'interno di queste gallerie. E questo è proprio uno dei motivi che portano Mittelbau Dora ad essere considerato come il più duro campo di lavoro forzato in Germania. Quante persone sono state recluse all'interno? Allora, sono state recluse 60.000 persone all'interno del campo. Considerate che Dora non è un lager d'ingresso, nasce come sottocampo di Buchenwald e diventa autonomo solo nell'ottobre del 44. E quindi spesso le persone che venivano inviate a Dora provenivano da altri campi. E noi abbiamo, diciamo, due intervistati sopravvissuti nel campo di concentramento che sono Guido Bianchedi, che è un internato militare italiano, e Alberto Sed. E il primo ci ha lasciato una testimonianza molto toccante proprio sulle condizioni di vita all'interno del campo e purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa. E poi abbiamo Alberto Sed che giunge a Dora dopo il suo trasferimento ad Auschwitz, insomma considerate che aveva circa 16 anni quando è entrato nel campo. E poi abbiamo anche l'intervista di Mario Quadalti, che è il nipote di un altro militare italiano internato nel campo. Senti, come sei venuta a conoscenza di questa storia e poi come hai strutturato il lavoro? Allora, la conoscenza in realtà è stata fatta attraverso degli studi. Io mi sono già occupata del tema dei campi di concentramento in un altro documentario e mi ha molto colpito la storia di Mittelbau Dora, perché comunque conoscere anche il funzionamento e la tipologia di lavoro che gli internati facevano sottoterra, ripeto, lo rende un lager diverso da tutti gli altri proprio per le condizioni di vita al suo interno. La cosa sorprendente è proprio questa, cioè gli internati lavorano alla produzione dei missili V1 e V2, e missili che sono progettati dallo scienziato tedesco von Braun, che a 25 anni si trova proprio a capo di un gruppo di persone incaricato di seguire le varie costruzioni dei missili, e alla fine della guerra sarà lo stesso von Braun, e questa poi è la storia forse un po' più nota, che verrà arrestato dagli americani, condotto in America e ricoprirà l'incarico di vice direttore della NASA. Quindi insomma, lo scienziato che prima al servizio dei nazisti crea missili V2, quindi armi di distruzione, è la stessa persona che ha permesso all'uomo di raggiungere la Luna. Senti Mary, per che futuro avrà questo tuo lavoro? E sono previste, è prevista un'uscita in in DVD, un passaggio televisivo, delle uscite in sala? E allora, il documentario è stato già mandato in onda da Rai Storia. Okay. Ed è prossima l'uscita in DVD con la distribuzione di Cinecittà Luce, e all'interno del DVD ci saranno dei contenuti speciali che sono appunto le storie degli internati, perché ovviamente noi abbiamo trovato due sopravvissuti, ma i militari italiani internati nel campo sono moltissimi. E ha già partecipato al Festival di Taormina lo scorso giugno, dove c'è stata un'anteprima europea, e stiamo discutendo con il distributore anche altre possibili partecipazioni. C'è un tuo sito internet comunque? Sì, c'è il sito internet di Light History, www.lighthistory.com, in cui insomma ci sono delle notizie relative al documentario, dove è possibile anche visionare il trailer in cui insomma viene presentata la storia in pochissimo tempo, ecco. Bene. Mary, io ti ringrazio, ci sentiamo per le novità future. Ah, con grandissimo piacere. Sono io che ringrazio te e voi tutti e vi auguro buon lavoro. Ciao anche a te. Ciao, a grazie presto. Tante. Ciao Mary. Mary Mirka Milo, regista del documentario Inferno Mittelbau Dora. Eccoci con Terenzio Cugia di Cineama per parlare della distribuzione del documentario Alla ricerca di un senso, che è in uscita in sala il 20 febbraio prossimo. Terenzio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi invitato. Allora, questo documentario, raccontaci un po'. Allora, è un viaggio di due ragazzi che sono amici d'infanzia, che si ritrovano dopo 10 anni dal loro ultimo incontro ed hanno avuto un percorso molto diverso ma stranamente parallelo, nel senso che si ritrovano uno manager a New York della Evian, in cui sta vendendo acqua in bottiglie, e l'altro invece è un filmmaker che ha appena finito di girare un film sui problemi di approvvigionamento idrico in India. E questi due mondi si ritrovano, questi due amici, e diciamo che i documentari di cui gli parla l'amico filmmaker convincono Mark della Menardia, che è un po' il protagonista del film, a lasciare questa sua vita dorata e ad immergersi in un viaggio alla ricerca di un senso, che è appunto il titolo del film, fondamentalmente viaggiando in giro per il mondo, incontrando personaggi di spicco sia del mondo filosofico sia ambientalista, per capire effettivamente se il mondo occidentale ha un suo senso e quale può essere una vita alternativa, una via alternativa sia per l'autorealizzazione che per uno sviluppo sostenibile. Mm-hmm. Terenzio, è stato un viaggio con più tappe. Con molte tappe, infatti si va dall'India agli Stati Uniti, alla Francia, a dei luoghi nell'America Latina dove appunto ci sono sciamani di antiche tradizioni. Senti, e si tratta anche di un documentario nato con una piattaforma di crowdfunding che ha visto il finanziamento di oltre 600 persone. Sì, è un esperimento di crowdfunding che ha avuto grande successo e che ha permesso al regista e al protagonista di girare, di fare questi incontri per oltre 4 anni e di poi montare il film nel 2015-2016. Fondamentalmente è anche un esperimento molto riuscito di autodistribuzione in Francia, per cui diciamo che questo stesso legame con le radici si è tradotto poi anche nel progetto distributivo, dove sono riuscito a raggiungere oltre 60.000 spettatori in Francia, molto spesso al di fuori dei circuiti classici del cinema. Terenzio, quali sono gli elementi che più vi hanno convinto di questo documentario tanto da distribuirlo? Ma direi due fondamentalmente. Noi abbiamo, come sai, fatto molti documentari e molto spesso quelli che trattano di temi filosofici e ambientali possono sembrare essere dei film a tema, cioè dove uno cerca di convincere lo spettatore di una tesi specifica. Quello che ci ha colpito di questo invece è proprio la natura di autoinvestigazione dei protagonisti, cioè non partono con un'idea certa di quello che è una risposta, partono solo con la domanda di dire effettivamente c'è qualcosa che ci manca, stiamo vivendo forse una vita senza uno scopo troppo preciso, cerchiamo di capire se ci sono alternative e quali sono delle risposte possibili. E per cui diciamo questa umiltà e questa mancanza di una tesi è una delle cose che ci è piaciuta molto, anche perché gli incontri spaziano da elementi di filosofia, quali incontri con alcuni esponenti del gruppo di Yogananda SRF e comunque persone vicino al mondo gandhiano, diciamo, di approccio, a invece esperti di fisica, per cui diciamo si va in un ampissimo raggio di conoscenze, a sciamani, per cui diciamo che è molto vario ed è anche molto interessante, perché ci si formano delle convinzioni mano a mano che questo film continua. La seconda cosa che ci ha colpito molto è la bellezza delle immagini, cioè il regista effettivamente è stato estremamente bravo nel creare da una parte delle immagini molto suggestive dei luoghi e delle persone con cui si incontrano, ma anche a intervallarlo con dei disegni animati, in alcuni casi con delle pause musicali, per cui è un documentario ma che ha alcuni connotati che vanno al di fuori del documentario classico e che colpiscono per la loro bellezza, per cui si esce, diciamo, il tempo scorre molto velocemente e si esce con una serie di domande in testa, di realizzazioni di alcuni aspetti magari meno noti delle problematiche attuali a livello mondiale e comunque con un senso di bellezza. A che tipo di distribuzione avete pensato? Ma diciamo che vogliamo seguire un po' l'esempio della Francia, nel senso che stiamo lavorando a una distribuzione ad eventi. Abbiamo fatto un primo giro di anteprime a Roma, a Firenze e a Torino, che hanno avuto un grandissimo riscontro sia di pubblico che di critica, e per cui abbiamo adesso una serie di tappe in varie città d'Italia, con l'idea di creare appunto un following del film anche tramite la pagina Facebook Alla ricerca di un senso il film, in cui si possono seguire appunto gli eventi e iscriversi per gli eventi programmati nelle prossime tappe del tour. Fondamentalmente l'idea è quella di agglomerare un minimo di spettatori, come abbiamo fatto già in passato per i film Il sentiero della felicità e anche Se vi è per Santiago e recentemente anche per Gabo, e a quel punto contattare dei cinema e avere una programmazione ad evento, che poi spesso accade che si ripete per il successo dell'iniziativa. Bene, Terenzio, allora ci sentiamo per le prossime novità, un abbraccio e alla prossima. Grazie, arrivederci. Ciao. Terenzio Cugia di Cineama sulla distribuzione del documentario Alla ricerca di un senso, in uscita in sala il prossimo 20 febbraio. Alessandro Angelini, regista della miniserie TV I Fantasmi di Porto Palo, come dicevo prima, su Rai 1 il 20 e 21 febbraio. Alessandro, ben ritrovato. Grazie, ben trovati a voi, grazie Federico. Era dai tempi dell'aria salata che non ci sentiamo, sono passati diversi anni, caro. Beh sì, 10 anni, vorrei usare una battuta celebre, sono andato a letto presto, se mi chiedete cosa ho fatto in questo periodo, rubando l'acciaio una volta in America, era una vita che aspettavo di dire questa battuta, grazie. Tra l'altro c'è stato poi un altro film e poi diverse serie TV. Intanto ti chiedo subito, a parte la maggiore visibilità, perché comunque la televisione fa pubblico, ti chiedo quali sono i pro e i contro di questo passaggio comunque dal cinema alla TV. Ma guarda, ormai credo non si possa più distinguere tra cinema e televisione, o meglio, il livello televisivo si è innalzato negli ultimi anni. Guardiamo anche quello che succede oltre i confini nazionali, le serie straniere, ma anche la fiction italiana in qualche maniera ha elevato il suo livello. Ci sono sempre più registi bravi, conosciuti, che sposano i progetti televisivi, perché rispetto al cinema riescono ad esplorare anche delle storie, degli argomenti che difficilmente al cinema sono proponibili. In questo caso, nel caso dei Fantasmi di Porto Palo, che nasce da una storia vera raccontata in un libro d'inchiesta di Giovanni Maria Bellu, c'è un elemento molto importante che è quello del mare. In realtà è una storia che racconta la morte di 283 immigrati avvenuta nel 1996, e sebbene siano passati 20 anni, risulta ancora molto attuale. Ecco, film sul mare negli ultimi anni ne sono stati realizzati, però diciamo che in qualche maniera la televisione consente anche di esplorare delle storie e delle narrazioni alle quali il cinema arriva con maggiore difficoltà in questo periodo. Senti Alessandro, come è nato tutto questo progetto? Appunto, come dicevo, c'era un libro di Giovanni Maria Bellu che raccontava la storia di questo naufragio, una storia terribile, tragica, che è avvenuta la notte del 24 dicembre del 1996. Una nave carica di migranti asiatici si incontra con una nave più piccola e quindi più veloce, che deve ricevere questi migranti e portarli sulle coste della Sicilia. C'è mare mosso, piove, il mare in burrasca, le due barche si scontrano e quella piccola finisce a fondo, causando la morte appunto di 283 persone. E non se ne sa nulla, nessuno ne sa nulla, le autorità vengono avvisate ma in qualche modo non trovano nulla, non cercano forse nei posti giusti. Quelli che trovano le tracce di questo naufragio sono invece i pescatori di Porto Palo, che nelle reti iniziano a trovare dei corpi. Col primo corpo che ritrovano, chiamando poi la guardia costiera, arriva alla guardia costiera trattandosi di un corpo e quindi di un morto, deve sequestrare il peschereccio per fare un'inchiesta per capire cosa è successo, e sequestrando il peschereccio sequestra l'unica possibilità che hanno i pescatori di guadagnarsi da vivere. Così si crea un tacito patto tra i pescatori: qualora succedesse di nuovo una cosa del genere, di pescare dei corpi, devono ributtarli a mare, questo per la loro sopravvivenza. Si crea un forte dibattito all'interno della comunità di pescatori, e qualcuno è contrario, qualcuno invece fa notare che è l'unica possibilità che hanno per continuare a fare il loro mestiere. Trovano questo accordo niente affatto risolto, niente affatto sereno, fino a che un giorno, ormai con la storia quasi alle spalle, un pescatore di nome Salvo Lupo, questo nella realtà, nella nostra fiction è interpretato in maniera magistrale da Beppe Ciorello, ritrova un documento plastificato con la foto di un ragazzo. Questo ragazzo ha più o meno l'età di suo figlio e lui decide che non può più tacere e deve raccontare questa storia. Quindi si mette in contatto con un giornalista di Repubblica, interpretato nel nostro caso da Giuseppe Battiston, e la storia poco a poco viene a galla, sebbene siano loro due contro un po' tutta la comunità, che decide di tenere il segreto sempre e solo per motivi di sopravvivenza. Quindi è una storia in qualche maniera molto attuale. Rappresenta forse la prima crepa nelle convinzioni dell'Europa Unita. Nel 96 stavamo già redigendo il trattato di Schengen, quindi si diceva libera circolazione di merci e di persone all'interno della comunità europea, però i confini della comunità devono essere molto sicuri. In qualche maniera la storia credo che sia molto attuale anche per il motivo per cui, se avessimo trattato diversamente questa storia 20 anni fa, forse avremmo trovato una misura diversa oggi nell'affrontare questa situazione dei migranti. Senti, ecco, a proposito della vicenda, a partire dalla scrittura fino alla realizzazione, quale chiave avete voluto dare al racconto? Ma di sicuro quella del realismo, perché era una vicenda che andava raccontata dal punto di vista umano. È vero che ci sono, si parla di un naufragio, si parla quindi anche di scene piuttosto difficili da realizzare e in qualche maniera, permettermi il termine, anche spettacolari in qualche modo, però è proprio vero che il nostro punto di riferimento è stato il racconto umano, cioè le sensazioni, le emozioni. Se avessimo solo raccontato un mare in tempesta e ci fossimo lasciati andare su quella, sull'aspetto diciamo più cinematografico di messa in scena, avremmo tradito quello che era il senso della storia. E comunque, per quanto sia una storia che racconta di una tragedia, racconta anche, mi piace vederla anche come una storia che invece racconta di sentimenti molto umani e molto positivi, come il coraggio di voler denunciare e la speranza che non solo che le cose possano cambiare una volta che si è denunciato, ma anche la speranza di tutte le persone che attraversano il mare per cambiare vita e trovare una vita migliore. Senti, a parte il libro, per la realizzazione, su quale documentazione vi siete basati? Guarda, fortunatamente il Salvo Lupo, il pescatore che ha vissuto la storia, Giovanni Maria Bellu, che è il giornalista che l'ha scritta per primo, sia sulle pagine del suo quotidiano, il quotidiano per il quale lavorava, sia nel libro, sono due persone molto disponibili, okay, molto aperte, quindi la prima fonte è stata quella di, diciamo così, di prima mano. Sì. Ci siamo nutriti dei loro racconti, delle loro emozioni, ce l'hanno trasmesse molto bene ed è stato il più grande premio è stato quello di poterli guardare negli occhi dopo che avevano visto le due puntate e ci hanno detto che avevamo restituito perfettamente quello che era il loro sentimento. Quindi la prima ricerca è stata fatta con le persone che avevano vissuto la storia. Sì. Poi ci siamo ovviamente basati sul libro di Bellu, ci siamo basati su quello che raccontava lui rispetto al viaggio, perché non avevamo testimonianze dirette dei migranti, salvo poi vedere delle interviste dei pochi sopravvissuti di questo naufragio che erano sbarcati in Grecia, sulle sponde della Grecia. Quindi è stata, diciamo così, una ricerca prima sul campo e poi attraverso quelle che erano le fonti a noi accessibili, che sono quelle della rete, che in questo caso è stata realmente una risorsa. Alessandro, il tuo lavoro con gli attori e attrici? Guarda, ho avuto la fortuna di trovare un Beppe Fiorello in grande stato di grazia, molto motivato, è stato un po' lui il motore della vicenda. E poi secondo me Beppe è riuscito a restituire con grande esattezza, con grande precisione, quelle che sono i tormenti di un uomo di fronte a una scelta di questo tipo, cioè denunciare e tradire la società in cui vive, i suoi amici, e quello invece di fare la cosa giusta. E poi la fortuna di avere nel ruolo del giornalista Giuseppe Battiston, che è mostruoso, riesce con pochi tratti a dare una grandissima profondità, una grandissima umanità di un personaggio che in qualche modo sarebbe stato solo al servizio della storia, non sarebbe stato invece caldo, umano. E per fortuna devo dire, poi l'Italia è sempre un paese che ci regala delle grandi sorprese rispetto agli attori, per cui siamo andati in Sicilia, abbiamo trovato un nutrito gruppo di attori siciliani più o meno poco conosciuti, posso citarne qualcuno, Roberta Caronia in testa, un'attrice di Palermo che ha fatto teatro e che è stata bravissima nel ruolo ha interpretato benissimo il ruolo della moglie del pescatore, e Domenico Centamore, che è uno degli altri attori siciliani in qualche maniera che hanno contribuito a dare grande realismo alla vicenda. È stato un lavoro molto, molto intenso, perché quando c'è di mezzo il mare bisogna scartare tutti quelli che sono gli orpelli e andare al sodo della narrazione, al sodo della vicenda, e quindi in qualche maniera il fatto di poterci poggiare non solo sul dialetto ma anche su un certo tipo di gestualità che era ricorrente o che è propria della Sicilia ci ha molto agevolati nel lavoro di realismo della storia. Questa vicenda è stata sconosciuta per lungo tempo, ma è rimasta nelle profondità del mare e poi è riemersa con tutto il suo tragico peso di verità. E volevo chiederti, ecco, cosa ci dicono questi fantasmi? Quello che è un po' la cosa che ci siamo detti all'inizio, cioè che le cose che accadono non sono cose che accadono semplicemente, ma sono cose sulle quali dobbiamo riflettere. Io credo che bisogna ritornare a una misura, che è quella di vedere un altro essere umano nelle persone che arrivano, non vedere solo un problema, non vedere o non mettere davanti la paura, ma bisogna restituire veramente una misura che è quella di guardare un altro essere umano e di capire che se ha affrontato un viaggio del genere scappava da qualcosa di veramente terribile. Non credo che nessuno di noi voglia mai vedere il proprio figlio su una nave, o voglia mai vedere il proprio figlio che affronta il mare e tutto quell'inferno che deve essere quel viaggio dai deserti, da paesi dove spesso c'è la guerra, dove veramente la vita umana vale molto poco, se non c'è qualcosa di veramente importante come la possibilità del sogno, il sogno di cambiare vita e di vivere una vita degna. Ale, io ti ringrazio, è stato un piacere, speriamo che non passino altri 10 anni prima di risentirci. Ti ringrazio molto, è sempre un piacere, grazie. Un abbraccio a te, dai. A tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao, alla prossima, grazie. Alessandro Angelini, regista della miniserie TV I Fantasmi di Portopalo su Rai 1 il 20 e 21 febbraio. Abbiamo con noi Alessandro Bernard, regista del documentario Waste Mandala. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, il tuo documentario l'ho visto quest'estate al Clorofilla Film Festival. Spieghiamo un po' di cosa si tratta a chi ci sta ascoltando. Ho sentito molto male, ma penso che tu mi abbia chiesto di che cosa si tratta. Sì, raccontiamolo a chi ci sta ascoltando, certo. Va bene, allora, Waste Mandala è stata innanzitutto una grandissima bella esperienza di crescita, e sostanzialmente è l'incarnazione della buona volontà e delle buone pratiche. E in pratica, per parlare di questioni ecologiche, per parlare di grandi problemi, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una serie di personaggi, tra cui anche uno dei protagonisti, Achut Gurung, che in qualche modo si sono fatti carico del problema dell'immondizia in Nepal e, diciamo così, lottando un po' contro i mulini a vento, hanno cercato un modo di risolvere la cosa. Magari non ci sono riusciti completamente, ma sicuramente sono riusciti a dare un esempio che è stato molto ed effettivamente importante per la popolazione nepalese e nella fattispecie anche di Kathmandu. Noi ci siamo ritrovati insieme a loro a costruire un grandissimo mandala fatto di plastica raccolta in giro per il Nepal, raccolta e stratificata in giro per il Nepal, nel cuore di Kathmandu. E questo è in estremissima sintesi quello che è avvenuto. Senti, quante sono le persone che hanno dato vita a questo progetto e se è un progetto che poi continua nel tempo? Allora, questo è estremamente importante, sì. Achut, siamo un gruppetto di amici, ha fondato una sorta di piccolo movimento nepalese che si chiama Green Soldiers. E sostanzialmente loro sì, continuano a farlo ogni santo giorno, continuano a radunarsi ogni santo sabato a Swayambhunath, che è un punto particolarmente importante nella valle di Kathmandu, e quindi sì, continuano ogni sabato a raccogliere. Una cosa molto positiva è che grazie a questo, diciamo così, questo non solo il film, assolutamente non è merito del film, ma il motore che è riuscito a suscitare, a creare, sono nate nuove associazioni, chiamiamole ambientaliste, nepalesi. C'è chi ha cominciato a occuparsi dei fiumi anche, che sono estremamente in condizioni veramente, veramente pessime. E anche il governo, dopo un po', ha cominciato a, diciamo così, lavorare a sincrono con la popolazione. Quindi nuove leggi, un minimo, no? una ripartenza. Anche, e invece, per quanto riguarda la realizzazione del film, sostanzialmente è stata una produzione indipendente per l'80%, dopodiché grazie a Zenith Arte Televisive, che è entrata come coproduzione, siamo riusciti ad allargare, diciamo così, troupe e risorse, e per portarlo poi a termine siamo in prima istanza usciti su Doc 3 lo scorso settembre, dopodiché abbiamo avuto una vita festivaliera come tanti documentari hanno. Anche perché quello del turismo, dei rifiuti del turismo rappresenta un grosso problema, soprattutto sulle vette del mondo. Sì, guarda, io ti dico, il turismo, avendo avuto modo di studiare a fondo la questione, il turismo è stato la mossa che ha scatenato un processo che però in questo momento non è da imputare solo ai turisti. In pratica in Nepal non ci sono infrastrutture o grandi infrastrutture che sono in grado di contenere quello che è lo spreco. E quindi che cosa è capitato? È capitato che con il boom turistico che è partito sostanzialmente alla fine degli anni 60, tutto quello che viene portato là rimane là. E ovviamente non puoi pretendere che persone che fino magari al giorno prima non avevano mai mangiato un pacchetto di patatine non possano consumarlo, e quindi si innesca questo circolo nuovo in cui manca un pezzo, però, perché la plastica, io mi sono convinto anche facendo questo lavoro e anche altri, di per sé non ha nessuna aggettivazione negativa, la questione è la gestione. In Nepal o in Tunisia al mare purtroppo si stratifica perché non c'è quella gestione, non c'è nessuno che la raccoglie e non c'è sostanzialmente una, chiamiamola, cultura di base, una consapevolezza di base che ti impedisce di buttarla. Però attenzione, perché io vivo in una zona di Torino, ad esempio, dove c'è la movida. Alle 5 del mattino le strade sono esattamente come Kathmandu, quindi non c'è mai giudizio, no, nei confronti delle persone. È un'attitudine, un'abitudine che tutti devono prendere. È chiaro che poi alle 6:30 Torino è completamente pulita, e invece a Kathmandu si stratifica la plastica. Senti, allora ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul documentario e anche sulle proiezioni? Assolutamente sì, abbiamo un sito unico, una landing page che è www.wastemandala.com, e lì trovate tutte le informazioni sulla produzione, sulla crew, sui protagonisti ovviamente, sullo stato del Nepal, se volete anche il film su Vimeo, scaricabile a pagamento, perché sfortunatamente noi ci siamo trovati lì durante l'ultimo grosso terremoto, e quindi insieme ai Green Soldiers abbiamo deciso di utilizzare buona parte di tutti i proventi che riusciamo a fare nella vendita ovviamente di questo documentario che abbiamo fatto con loro, anche in varie attività di ricostruzione che a tutt'oggi continuano in Nepal. Ovviamente non se ne parla più perché ognuno ha il suo terremoto, ci mancherebbe, però insomma abbiamo ritenuto giusto fare questa cosa anche solo per ringraziarli. Benissimo. Alessandro, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie mille. Ciao. Grazie mille, arrivederci. Alessandro Bernard, regista del documentario Waste Mandala. Eccoci con Damiano Ricci di BIM Distribuzione per parlare con lui del documentario Gimme Danger di Jim Jarmusch, in uscita in sala 2 giorni, il prossimo 20 e 21 febbraio. Damiano, ben ritrovato. Ben ritrovato a voi, cioè ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori dei Visionari. Ciao a tutti. Ciao. Allora, come ti dicevo, mi è andato di traverso perché l'ho visto per metà. Comunque, raccontiamo di cosa si tratta. Sì, certo. Cioè, diciamo, vedendo anche l'altra metà, si ha una visione completa della vita di hip hop e del fenomeno, diciamo, sia personale, cioè delle vicende dell'artista, sia anche culturale, cioè dell'impatto che gli Stooges hanno avuto nella musica leggera americana degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70. Un impatto enorme, mi sento di dire, da appassionato di hip hop, da appassionato degli Stooges, che ha veramente cambiato la fisionomia della musica. In quegli anni, cioè, quegli erano anni di grande fervore musicale, soprattutto in America, c'era il blues, c'era diciamo tutta la scena dell'East Side di New York, quindi Bob Dylan, c'era l'emergere anche del progressive rock, cioè c'erano tante temperie musicali, cioè, sono gli anni anche di Woodstock, però nel frattempo emergeva qualcosa di veramente sotterraneo. Qualcosa, veramente un fenomeno underground, pronto poi ad esplodere negli anni 70 con il punk, e questo fenomeno appunto i hip hop e gli Stooges, che erano qualcosa di completamente diverso dal resto della musica americana, come il film racconta molto bene. Senti, per quanto riguarda la regia, Gene Jarmusch, oltre ad essere un grande regista, è anche un musicista lui stesso. Esattamente, cioè io penso che ci sia innanzitutto un grande amore personale di Jim Jarmusch verso gli Stooges e verso e una grande amicizia tra Jim Jarmusch e hip hop, che emerge molto chiaramente nel corso del documentario. Hip hop si racconta per la prima volta, credo veramente senza pudori, senza veli, racconta tutto di lui, racconta anche delle cose personali che insomma vedrete ovviamente chi di voi andrà a vedere questo film al cinema, e credo anche una grande affinità stilistica, perché questa è la cosa che mi ha più colpito vedendo il documentario, la cosa che mi ha più come dire, che ho più apprezzato nel vedere una figura diciamo cinematografica come Gene Jarmusch e una grande personalità musicale come Iggy Pop, pensarli insieme e vedere appunto nel film questa affinità mi ha fatto pensare che ci sono veramente delle radici comuni nel loro lavoro, nel lavoro di Iggy Pop come musicista e cantautore, nel lavoro di Gene Jarmusch, ed è a mio modo personalissimo modo di vedere la semplicità, cioè la semplicità che non è veramente semplicità, che in realtà è complessità, ma con un effetto che è quello appunto tipico dello stile di Gene Jarmusch, ma anche di hip hop, di rendere semplice quello che invece poi diventa complesso e reiterato, perché è un po' la cifra stilistica secondo me di entrambi, e questa è una cosa che come dire, ha un lavoro sul film, ha un'analisi del film, emerge, perché si capisce appunto per quale motivo Gene Jarmusch si è accostato alla figura e si è fatto anche influenzare dalla figura di Iggy Pop. C'è anche un uso interessante, decontestualizzato, di materiali d'archivio, sia di filmati che poi degli inserti d'animazione, molto carini. Sì, assolutamente, perché appunto Gene Jarmusch è un autore, quindi non bisogna aspettarsi un documentario come tanti altri, bisogna aspettarsi un documentario reinterpretato, rielaborato da un autore come Gene Jarmusch, quindi con dentro tante cose e sicuramente, come dire, al di là del talking heads, cioè nel senso della testa parlante in questo caso, quindi dell'intervista in profondità a Iggy Pop, che c'è ed è molto appunto anche stilisticamente con una macchina ferma, cercando proprio di entrare dentro questo volto corrugato, il volto di hip hop attualmente, però c'è anche un uso abbastanza creativo e libero di tanto altro materiale che riporta indietro appunto all'esperienza musicale dei primi anni 60, tanto materiale secondo me personale che hip hop ha messo a disposizione del cineasta, e degli inserti d'animazione che sono veramente interessanti. Senti Damiano, per saperne di più tutti i riferimenti sulla pagina Facebook e sul sito internet della BIM, giusto? In questo caso, per saperne di più, tutti i riferimenti sul sito internet e sulla pagina Facebook della Nexo, perché la BIM, okay, in questo caso si è fatto una joint venture, una partnership molto virtuosa con Nexo, che porterà questo film al cinema, e Nexo ha curato il lancio e la distribuzione per conto della BIM, quindi potete trovare sul sito della Nexo e sulla pagina Facebook di Nexo tutto il materiale, cioè dell'ottimo materiale da vedere e con cui farsi voglia di vedere il film. Damiano, un abbraccio e alla prossima. Anche a te un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Damiano Ricci di BIM Distribuzione sul documentario Gimme Danger di Jim Jarmusch, in uscita in sala il 20 e 21 febbraio su Iggy Pop and the Stooges. È tutto per Visionari di questa settimana, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.